Fusione Culturale Connettive presenta Controessenze, la rubrica letteraria delle donne, mujeres, femme, women, mulieres, poem, uniques, mujeres. The cauldron was a bubbling, the flesh was lean, and the women moved forward like piranhas in a stream. And they spread themselves before me, an offering so sweet. And they beckoned, and they beckoned, come on, darling, eat. Buonasera a tutte e a tutti. Stasera leggeremo la traduzione di un documento relativo alla legge svedese contro l'acquisto dei servizi sessuali da parte dei clienti della prostituzione, che è intesa a contrastare il traffico di esseri umani. L'autrice di questo articolo si chiama Gunilla Ekberg, è avvocata e sostenitrice del modello femminista abolizionista nei confronti della prostituzione e ha lavorato come esperta di prostituzione e tratta di esseri umani presso il Ministero svedese dell'Industria, del Lavoro e delle Comunicazioni. Attualmente è direttore coesecutivo del gruppo di pressione internazionale CATV, Coalizione Internazionale contro la Tratta delle Donne, che ha sede a Bruxelles e con cui porta avanti campagne internazionali di sensibilizzazione e di pressione in diversi paesi del mondo per l'abolizione della prostituzione e la persecuzione della tratta di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale. Ma prima di passare alla lettura di questo testo, di cui oggi leggeremo solo una parte perché è molto lungo e del quale forse completeremo la lettura eventualmente nella prossima puntata, vorremmo rispondere ad alcune obiezioni che ci sono arrivate in occasione della nostra ultima trasmissione che abbiamo fatto a gennaio, nel corso della quale abbiamo letto un intervento di un professore dell'Università di Leon che, in cui espone alcuni dei principi cardine del modello abolizionista secondo lo stile svedese. Innanzitutto vogliamo precisare che l'accademico in questione si batte con la sua associazione di uomini contro la prostituzione non contro il lavoro sessuale di per sé e quindi contro le donne che lo praticano, ma contro l'acquisto di servizi sessuali da parte dei cosiddetti clienti della prostituzione. E questo perché tutti coloro che sostengono questa tesi, noi incluse, partiamo dal presupposto che la prostituzione non è un lavoro, né che l'industria del sesso, che include, come ci ricorda anche Gunilla Ekberg in questo scritto, la prostituzione di strada, ma anche quella al chiuso, i bordelli, i sex club, i night club, gli striptease, i servizi di escort, i mercati di prostituzione su internet, la pornografia, il turismo sessuale e quant'altro. Questa industria non crediamo che possa fornire un lavoro possibile per le donne, per le bambine e per tutti coloro che in un modo o nell'altro operano o si trovano nell'ambito della prostituzione. E questo perché pensiamo che la prostituzione venga agita da qualcuno, nella maggior parte dei casi clienti e prosseneta, su qualcun altro, nella maggior parte dei casi donne, bambine e bambini. Questi sono uomini con un potere economico maggiore rispetto a quello delle prostitute, che sono generalmente donne povere, migranti o che provengono da situazioni familiari e socioculturali ad alto rischio di povertà e di violenza. Di conseguenza, noi preferiamo chiamare queste donne non sex workers o prostitute o lavoratrici del sesso, poiché la maggior parte delle donne che operano nella prostituzione non hanno scelto liberamente di farlo e sono vittime della tratta o di forme di violenza e di coercizione che le hanno indotte a prostituirsi per mezzo di metodi che includono la violenza fisica ma anche e soprattutto psicologica, e quindi le preferiamo chiamarle prostituite, usare questo termine, perché spesso e volentieri non sono le dirette destinatarie dei proventi che provengono dalla prostituzione. Questi proventi vanno, come sappiamo, nella maggior parte dei casi a beneficio di terzi, papponi, organizzazioni criminali, gestori di locali notturni e di bordelli, fidanzati o compagni delle donne che vengono indotte a prostituirsi, magnati dell'industria del sesso, autori e produttori di prodotti destinati all'industria del sesso o alla pornografia, e non da ultimo i clienti, ossia coloro che rendono possibile l'esistenza, la permanenza e la diffusione sempre più capillare della prostituzione attualmente nella nostra società. Riteniamo, come abbiamo anche più volte detto e ribadito nelle nostre trasmissioni, che esiste la prostituzione perché esiste la domanda di prostituzione. E la domanda di prostituzione esiste perché una parte consistente degli uomini occidentali ricorre alla prostituzione per soddisfare le proprie esigenze sessuali, indipendentemente dall'opportunità di avere in tessere delle relazioni con donne del loro stesso status sociale o livello culturale. Questi uomini ricorrono alla prostituzione non tanto per il sesso, ma per esercitare un potere. Sanno che pagando possono avere a loro disposizione una donna o una bambina che è messa nelle condizioni di soddisfare qualsiasi loro richiesta in relazione a servizi cosiddetti sessuali, che spesso però sono dei veri e propri abusi e violenze. Questo non lo diciamo noi o gli attivisti e le attiviste dell'abolizionismo a livello internazionale, lo dicono invece le prostitute e le ex prostitute che hanno operato e che operano tuttora nel cosiddetto mercato del sesso. È ovvio che la prostituzione non è un lavoro che possa fornire, secondo il nostro punto di vista, in nessun modo e indipendentemente dalle situazioni in cui essa venga esercitata, delle tutele a chi la esercita. Le donne che operano nel mondo della prostituzione sono semplicemente a forte rischio di subire violenza, stupri e abusi di ogni genere. E non esiste una regolamentazione che possa tutelare le donne che operano nella prostituzione. E questo lo diciamo perché negli Stati europei in cui questa regolamentazione o legalizzazione è stata fornita, attuata, non ha comportato delle tutele effettive e dei miglioramenti per le donne che operano nella prostituzione. Basta leggere molte interviste fatte a ex prostitute che lavoravano nei locali in Olanda, oppure gli ultimi rapporti che sono usciti sull'esplosione dello sfruttamento della prostituzione e del commercio delle schiave sessuali in paesi come Olanda e la Germania, in cui la prostituzione è considerata a tutti gli effetti una professione ed è di fatto tutelata e legalizzata per legge. È per questo che ci opponiamo alla regolamentazione della prostituzione o a qualsiasi sua normalizzazione e regolamentazione o alla sua istituzionalizzazione al lavoro o possibile professione, perché la riteniamo una forma di violenza di genere, di sfruttamento e di reificazione del corpo che nella maggior parte dei casi appartiene alle donne e alle bambine. E allora cosa fare? Il modello svedese, con la persecuzione dei clienti, ha ridotto di molto la pratica della prostituzione in Svezia e ha fatto sì che le organizzazioni criminali non operassero più in modo massiccio nel paese, come invece succede nel nostro, in Italia, e che le donne che operano nella prostituzione a queste vengano offerte delle alternative lavorative reali che permettono loro di cambiare le loro condizioni ed evitare il permanere in condizioni di violenza, di abuso e di vulnerabilità che sono le condizioni che implica la prostituzione, chiaramente. Per contro, noi non riteniamo in alcun modo che lo Stato o la legge siano la panacea di tutti i mali, né che siano i garanti principali della libertà delle donne. Crediamo però che quel che veicola questa legge di questo tipo non sia solo un modello legislativo, ma soprattutto un modello culturale che possa incidere in modo costruttivo sulla coscienza e sulla cultura di migliaia di uomini e di donne che ne sono i diretti destinatari. E questo lo diciamo perché questa legge non è rivolta solo ai clienti della prostituzione e alle donne che la esercitano, perché è intesa non come uno strumento di repressione. In effetti le donne che vengono poi perseguitate, le donne che si trovano nella prostituzione non vengono perseguitate dalla legge per quello che fanno, ma è uno strumento di cambiamento culturale della società, perché le donne vengono indotte in un certo modo, aiutate ad abbandonare, qualora lo volessero, la prostituzione. Una legge di questo tipo, qualora venisse adottata in Italia, costituirebbe a nostro avviso un importante passo avanti nella promozione di una cultura che possa contrapporre lo sfruttamento sessuale delle donne, che invece una regolamentazione legittimerebbe, al contrasto di questo sfruttamento. Sarebbe un segnale culturale prima che legislativo molto forte per tutti coloro che invece considerano la prostituzione come uno scambio economico vantaggioso sia per il cliente che per la prostituta. Non neghiamo che esistano donne che decidano autonomamente di prostituirsi, ma le evidenze dimostrano che la maggior parte delle donne che si prostituiscono lo fanno non per loro volontà, ma per eventi che esulano dalla loro volontà o per motivi economici o di tipo socioculturale. Per tutti questi motivi, in nessun caso ad ogni modo riteniamo la prostituzione una forma di liberazione sessuale, non la riteniamo un'emancipazione e men che mai non la riteniamo un'autodeterminazione, una forma di autodeterminazione delle donne, e per questo ci opponiamo a una sua eventuale normalizzazione e regolamentazione all'interno della nostra società. Ma ora veniamo al documento che ha scritto Gunilla Ekberg e analizziamo in fondo le motivazioni, l'attuazione e le ricadute che ha questa legge in Svezia, che tanto fa discutere a distanza di anni e crea e ha creato divergenza all'interno dei movimenti femministi in Europa e nel mondo. Get afraid of what that could bring. I got a bowling ball in my stomach. I got a desert in my mouth. Figures that my courage would choose to sell out now. I've been looking for a savior in these dirty streets. Looking for a savior beneath these dirty sheets. I've been raising up my la legge svedese che proibisce l'acquisto di servizi sessuali. Buone pratiche per la prevenzione della prostituzione e il traffico di esseri umani. Gunilla Ekberg, ministra dell'Industria, del Lavoro e delle Comunicazioni. Dopo molti anni di dibattito pubblico iniziato dal movimento delle donne svedesi, la legge che proibisce l'acquisto di servizi sessuali è entrata in vigore il 1 gennaio del 1999. La legge è il primo tentativo di un paese di affrontare l'origine della prostituzione e del traffico di esseri umani. La domanda: gli uomini che fanno il diritto e che fanno proprio il diritto di acquistare persone a scopo di prostituzione. Questa legge innovativa è la pietra angolare dell'impegno della Svezia di creare una società moderna, democratica, dove le donne e le ragazze possano vivere le proprie vite libere da tutte le forme di violenza maschile. Insieme all'educazione, alla promozione dell'aumento della consapevolezza e al supporto alle vittime, la legge, insieme ad altre leggi, stabilisce una politica di tolleranza zero per la prostituzione e il traffico di esseri umani. Quando i clienti rischiano la punizione, il numero di uomini che acquista persone prostituite diminuisce e il mercato locale della prostituzione diventa meno lucroso. I trafficanti sceglieranno dunque altre e più redditizie destinazioni. La prostituzione e il traffico di donne e ragazze a fini di sfruttamento ha subito un allarmante incremento negli ultimi decenni. L'industria della prostituzione è in rapida crescita e si sta espandendo nel mondo, dove molti paesi aderiscono all'ideologia del libero mercato. Un mercato in cui donne e ragazze sono solo uno tra gli infiniti prodotti vendibili. Per quanto riguarda il concetto di industria della prostituzione, Gunilla Ekberg sottolinea che questo concetto, secondo la sua posizione, include diverse tipologie di prostituzione, come abbiamo detto prima: prostituzione di strada, bordelli, sex club, night club, eccetera, le spose in vendita, le attività di sesso telefonico, le agenzie di turismo sessuale e anche i creatori e distributori di pornografia. Ekberg considera anche i beneficiari esterni quando parla di industria del sesso, come le agenzie di viaggi, gli hotel e le compagnie aeree che beneficiano della prostituzione di donne e bambine nell'industria del turismo sessuale. Così, il traffico della prostituzione delle donne e delle ragazze per profitto è una delle imprese globali in maggior aumento, dopo il traffico di droga e di armi. Contemporaneamente la prostituzione è stata normalizzata dai neoliberisti come una forma di intrattenimento sessuale, in cui i contraenti, che scambiano servizi per denaro, sono posti sullo stesso piano. Il fatto di lavorare come sex worker viene visto come un percorso di carriera legittima e i centri per l'impiego in Olanda, dove la prostituzione e i bordelli sono legali, suggeriscono il lavoro nei bordelli come una scelta professionale percorribile. Gunilla Ekberg ritiene che, dal momento che non condivide l'idea che la prostituzione sia un lavoro e che le donne prostitute, le ragazze debbano essere chiamate sex workers o lavoratrici del sesso, o che la prostituzione sia un'industria sessuale, usa a questo proposito la parola donne o ragazze prostituite per rendere chiaro che la prostituzione è agita da qualcuno e su qualcun altro. Usa il termine industria della prostituzione per mostrare che ciò che viene messo in atto è la prostituzione di donne, non il sesso. Sebbene non tutte le persone sfruttate nell'ambito di questa industria siano donne o ragazze, utilizza comunque il genere femminile in tutto l'articolo, perché la prostituzione è, secondo lei, sesso specifica e sebbene ci siano alcuni uomini e ragazzi, circa il 10% secondo le inchieste passate, quelle per esempio di Rosca del 98, questi ragazzi e uomini non sono abusati per motivi di classe o di razza, al contrario come invece lo sono le donne e le ragazze che vengono stuprate in quanto donne. Ciò che prima veniva visto come una grave forma di sfruttamento sessuale, ora rappresenta un diritto delle donne di fare ciò che vogliono con il proprio corpo e una strada per la liberazione sessuale e l'autodeterminazione. Questo cambiamento rappresenta un esempio contemporaneo e pertinente del ritorno a un'agenda politica repressiva che oggi permea praticamente tutti i discorsi politici, accademici e che hanno seguito attualmente sulla prostituzione e il traffico di esseri umani. Tuttavia non tutti i paesi del mondo sono entusiasti allo stesso modo dell'idea che la prostituzione dovrebbe essere vista come una forma di lavoro o che lo sfruttamento delle donne da parte degli uomini dovrebbe essere commercializzata e legalizzata. Nel suo intento di proibire lo sfruttamento di servizi sessuali, il governo svedese stabilisce che proibendo lo sfruttamento di servizi sessuali, della prostituzione e dei suoi effetti dannosi, questi si possano contrastare in modo più efficace di prima. Il governo considera comunque che non sia ragionevole punire le persone che vendono un servizio sessuale. Nella maggioranza dei casi, almeno queste persone, sono la parte debole che viene sfruttata da coloro i quali vogliono solo soddisfare i loro desideri sessuali. Ministro del Lavoro, 1998, pagina 55. Principi delle politiche svedesi e della legislazione contro la prostituzione e il traffico di esseri umani. Per lungo tempo il lavoro contro la prostituzione e il traffico di esseri umani è stato una priorità politica della Svezia, sia a livello nazionale che internazionale. Questo lavoro viene considerato una parte essenziale degli sforzi per creare una società moderna e democratica in cui la piena uguaglianza di genere sia la norma e in cui riconoscere il diritto all'equa partecipazione di donne e uomini, ragazze e ragazzi in tutti i campi della società. In Svezia è chiaro che qualsiasi società che sostiene di difendere i principi di uguaglianza giuridica, politica, economica e sociale per le donne e le ragazze debba rigettare l'idea che le donne e i bambini, soprattutto bambine, siano delle merci che possano essere comprate, vendute e sfruttate sessualmente dagli uomini. Agire diversamente significa che una classe a sé dei diritti umani delle donne, soprattutto donne e ragazze marginalizzate dal punto di vista economico e razziale, sia esclusa da queste misure, così come dalla protezione universale della dignità umana racchiusa nel corpus degli strumenti dei diritti umani internazionali sviluppati durante gli ultimi 50 anni. Ministro dell'Industria, Lavoro e Comunicazioni 2004. In Svezia la prostituzione è ufficialmente riconosciuta come una forma di violenza sessuale maschile contro donne e bambini. Una delle pietre miliari delle politiche svedesi contro la prostituzione e il traffico di esseri umani è il focus sulle cause profonde, il riconoscimento del fatto che senza la domanda maschile di donne e per usare donne a fini sessuali e di sfruttamento, l'industria globale della prostituzione non riuscirebbe a prosperare e ad espandersi. La prostituzione è un problema serio e dannoso, in particolare non solo per le donne e le bambine prostituite, ma anche per la società in generale. Pertanto le donne e bambini prostituiti vengono visti come delle vittime della violenza maschile che non corre il rischio di subire delle punizioni. Le vittime hanno il diritto di essere aiutate a uscire dalla prostituzione. Per comprendere meglio perché la prostituzione sia nociva per coloro che si prostituiscono, le seguenti tre motivazioni e risposte possono aiutare a comprendere le ragioni. Chi sono le donne e le ragazze prostituite? Sappiamo che certe condizioni oppressive aumentano la probabilità che donne e ragazze siano trascinate nella prostituzione dai papponi e dai trafficanti, per esempio la povertà, la perdita di una casa, la dipendenza dalle droghe, la disuguaglianza di genere, la discriminazione sessuale e razziale, così come le violenze sessuali, fisiche e psicologiche perpetrate dagli uomini della famiglia, dai fidanzati, dai mariti, dagli stessi papponi e altri. Inoltre, in diversi studi di tutto il mondo risulta che la maggioranza delle donne che sono coinvolte nella prostituzione sono state vittime di violenza sessuale da parte di uomini in gioventù. Numero 2. Come vivono le donne nella prostituzione? I papponi, i trafficanti e gli acquirenti sottopongono le donne e le ragazze a stupri e abusi fisici per superare la loro resistenza e per convincerle ad entrare nella prostituzione. Una donna o un bambino prostituito si trova in una posizione di estrema dipendenza dagli uomini che li comprano e che li usano sessualmente, li abusano. Sono costretti a fare tutto ciò che ci si aspetti che loro facciano, devono sopportare tutti i tipi di violenze e di invasioni fisiche e devono servire molti acquirenti, uomini anonimi, ogni giorno, i quali pretendono che loro invece godano di queste violenze. Punto numero 3. Quali sono le conseguenze a lungo e a breve termine che del fatto che ci si trovi nella prostituzione? Donne e ragazze che sono riuscite a scappare dalla prostituzione dopo anni di abusi raccontano le loro vite piene di terrore, di crudeltà inimmaginabili, compiute da clienti e dai papponi, che sono state sottoposte a torture sessuali sotto forma di particolari pratiche sessuali, come per esempio il sadomasochismo, raccontano di essere stati sottoposti a umiliazioni sistematiche, molestie sessuali, minacce, stupro, botte e a volte rapite. Inoltre molte donne e ragazze hanno contratto malattie sessualmente trasmissibili, compreso l'AIDS, dai loro clienti e dai papponi. I papponi e i clienti spesso filmano e fotografano le violenze, vendono questi film poi nell'ambito della pornografia e postano le foto su internet. Gli effetti sulla salute fisica, mentale ed emotiva delle donne prostituite ovviamente sono gravi e causano danni fisici ed emotivi a lungo termine. Inoltre studi internazionali dimostrano che le donne prostituite soffrono di ferite psicologiche simili a quelle dei veterani di guerra e dei sopravvissuti alla tortura, come flashback, ansia, depressione, disturbi del sonno e stress. I suicidi e i tentati suicidi inoltre sono molto comuni. I pimps, cioè i papponi, i trafficanti e i clienti sfruttano consapevolmente la vulnerabilità delle vittime prodotta da un alto tasso di povertà, dalla disoccupazione, da pratiche lavorative discriminatorie, dall'inuguaglianza sociale e dalla violenza contro donne e bambini. Ad un livello strutturale, la Svezia riconosce che per riuscire nella lotta contro lo sfruttamento sessuale, le condizioni politiche, sociali, economiche in cui le donne vivono debbano essere migliorate, introducendo misure di sviluppo, per esempio la riduzione della povertà, uno sviluppo sostenibile e programmi sociali che riguardino specificatamente le donne. In Svezia la prostituzione e il traffico di esseri umani a fini sessuali sono visti come problemi che non possono e non dovrebbero essere separati. Entrambi sono pratiche dannose e intrinsecamente legate. Si è compreso che l'obiettivo del reclutamento, trasporto, vendita o sfruttamento di donne e ragazze da parte dei trafficanti, dei pimps e dei membri del crimine organizzato tra i paesi o ai confini dei vari paesi è nella stragrande maggioranza dei casi quello di vendere queste donne all'interno della prostituzione. Di conseguenza è ovvio che il traffico di esseri umani a fini sessuali non sarà mai eliminato senza che la comunità internazionale prenda una forte posizione e metta in atto misure concrete contro la prostituzione e lo sfruttamento sessuale. In realtà già ai primi decenni del XX secolo le pioniere femministe svedesi, nei loro tentativi di combattere la prostituzione e il traffico di donne e ragazze, posero l'accento sulla relazione tra il traffico internazionale di donne e la posizione delle donne e delle ragazze nella società. Si vede a questo proposito, per esempio, il lavoro della femminista radicale e fisica svedese Alma Sandqvist, che nel 1930 era una dei tre membri della Lega della Commissione Nazionale d'Inchiesta sul traffico di donne e bambini nell'Est. Nel suo rapporto e nelle raccomandazioni, che fu scritto per la maggior parte dalla stessa Alma Sandqvist, la Commissione osservò che il principale fattore di promozione del traffico di donne dell'Est sono l'esistenza di bordelli e la catena di bordelli che sono a disposizione dei trafficanti, in particolare i bordelli nei posti di destinazione delle vittime. Il rimedio più efficace è, secondo l'opzione della Commissione, l'abolizione dei bordelli riconosciuti e autorizzati di cui ci si è occupati. Questa l'aveva redatta la Commission of Inquiry into Trafficking Women and Children in the East. In Svezia tutti i tipi di misure giuridiche o politiche che legalizzano le differenti attività legate alla prostituzione, come i bordelli, o che decriminalizzano chi perpetua l'industria della prostituzione, incluso i pimps, i trafficanti, i proprietari di bordelli e i clienti, vengono visti come la più grave attuale minaccia all'uguaglianza di genere e ai diritti delle donne e delle ragazze di vivere una vita libera dalla violenza maschile. Risulta chiaro che la legalizzazione della prostituzione inevitabilmente normalizzerebbe una forma estrema di discriminazione sessuale e violenza e rafforzerebbe la dominazione maschile su tutti gli esseri umani di sesso femminile. La legalizzazione della prostituzione significa che lo Stato impone regole con le quali può controllare una classe di donne in quanto prostitute. Il lavoro contro la prostituzione e il traffico di esseri umani necessita di una prospettiva ampia e che ci sia il desiderio di agire con più politica ad ampio raggio. È inoltre necessario il coinvolgimento e la collaborazione di un'ampia sfera di attori pubblici e privati. In Svezia questo lavoro è stato intrapreso non solo dal governo svedese e dalle autorità pubbliche, ma anche dal movimento delle donne, dalle associazioni che si occupano di case protette e da altre organizzazioni non governative. Per promuovere il suo impegno nel lavoro per l'uguaglianza di genere e per prevenire e sopprimere la prostituzione e il traffico di esseri umani, il governo svedese, con il coordinamento della Divisione per l'uguaglianza di genere, sta attualmente preparando un piano di azione nazionale per combattere la prostituzione e il traffico di esseri umani, soprattutto di donne e bambini. Il piano, che sarà presentato al Riksdag, il Parlamento, nel 2005, includerà misure ulteriori per la prevenzione della prostituzione e del traffico di esseri umani, incluse misure speciali per contrastare la domanda che incentiva tutte le forme di sfruttamento sessuale, soprattutto di donne e bambini. Inoltre, dovrebbero essere sviluppate e implementate misure per combattere la prostituzione e il traffico di esseri umani all'interno di un sistema di giustizia e, ancora più importante, misure che concernono la protezione e l'assistenza alle vittime della prostituzione e del trafficking. Ground. Allora, siamo in chiusura, riassumiamo prima di chiudere tutti i punti che abbiamo sviluppato, che sono inclusi ovviamente nel documento di Gunilla Ekberg e che abbiamo letto. Punto numero uno, all'inizio quindi l'autrice espone i presupposti della legge svedese che rispetto, no, a che se i clienti vengono perseguiti, il mercato della prostituzione subisce un netto calo, questo si è visto in Svezia, diventa meno lucroso e i trafficanti sono portati a scegliere altre destinazioni, altri paesi per i loro commerci. Il punto numero due invece è che la prostituzione è legata alla tratta di esseri umani a fini sessuali e che questi due elementi sono intrinsecamente legati, che non si può fare un discorso separato, sono legati alla tratta, la prostituzione è legata alla tratta e ai gruppi del crimine organizzato che la gestisce, e questo fa gioco ai cosiddetti neoliberisti politici e industriali di questo orientamento, che ne traggono grandi profitti attraverso un'operazione di socializzazione e di banalizzazione della prostituzione all'interno della società. E, in sintesi, quello che si sta facendo adesso è creare una sorta di movimento in cui la prostituzione sia uno degli elementi di emancipazione femminile. La cosiddetta autodeterminazione e attraverso, diciamo, la libertà di prostituirsi. Il punto numero tre è che la legge protegge, non perseguita però, le donne che operano nella prostituzione, cioè non le costringe ad abbandonare l'attività qualora loro non vogliano farlo, ma offre loro delle alternative lavorative e delle tutele sociali e in più agisce in modo effettivo contro la tratta internazionale che è presente all'interno del paese. Secondo quest'ottica, quindi, lo Stato, se dovesse invece al contrario legalizzare la prostituzione, secondo Gunilla Ekberg, permetterebbe a una classe di donne che si prostituiscono di essere controllate e sfruttate economicamente dalle mafie e dallo Stato stesso, noi diciamo, aggiungiamo, perché ci guadagnerebbe tassando le donne e traendo profitti dalla prostituzione altrui. Quindi non riteniamo adesso di aggiungere altro, vi diamo appuntamento alla prossima puntata nella quale continueremo a leggere e a commentare il documento di Gunilla Ekberg sulla legge svedese. Grazie a tutti e a tutti di essere stati e state con noi e alla prossima puntata. nothing was as real as this sheet beneath my feet descending into air.